Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Dalle pagine del Domenicale, l'inserto culturale del Sole 24 Ore, Franco Pacini parla dell'imminente inaugurazione dell'anno internazionale dell'astronomia. Nei prossimi giorni, il 15 e 16 gennaio, presso la sede dell'UNESCO a Parigi, verrà inaugurato l'anno internazionale dell'astronomia, sulla falsariga di analoghe celebrazioni di altre discipline scientifiche svoltesi in anni precedenti con il patrocinio dell'UNESCO e delle Nazioni Unite. Molti ricorderanno, per esempio, le celebrazioni della fisica, svoltesi nel 2005 nel centesimo anniversario della teoria della relatività di Einstein. Per molti mesi, una serie di eventi cercarono con successo di mettere in luce l'importanza concettuale e pratica delle grandi scoperte della fisica che hanno profondamente modificato la nostra conoscenza sul mondo che ci circonda e sulle leggi della natura. Anni prima, nel 2000, lo stesso era stato fatto per la matematica, una delle discipline che, seppur ostica a molti, è alla base di gran parte della vita moderna. Non poteva mancare una celebrazione dell'astronomia, la più antica e, per molti versi, più affascinante fra tutte le scienze. Mantenere la tradizione di associare a ogni anno internazionale una scoperta fondamentale non fu difficile, dato che nel 2009 ricorre anche il 400° anniversario delle grandi scoperte astronomiche di Galileo, quelle che mostrarono che nell'universo non c'è solo la Terra, ma esistono anche tanti altri mondi. Per l'importanza di questa ricorrenza, una pietra miliare nello sviluppo della civiltà umana, la International Astronomical Union, IAU, decise di chiedere alle Nazioni Unite e all'UNESCO il patrocinio per fare nel 2009 l'anno mondiale dell'astronomia. L'autorevolezza della richiesta era inoppugnabile, dato che la IAU, fondata nel 1918, raggruppa oggi un centinaio di paesi e quasi 10.000 astronomi professionisti. Lo scrivente era allora il presidente di questa organizzazione e non risultò difficile convincere i colleghi astronomi degli altri paesi dell'opportunità di associare l'anno dell'astronomia con le scoperte di Galileo, presentando formale richiesta all'UNESCO e alle Nazioni Unite. L'anno dell'astronomia fu approvato all'unanimità, con l'intento di organizzare manifestazioni ed eventi rivolti a esporre al pubblico il fascino derivante dall'esplorazione dell'universo. Gli eventi previsti sono tantissimi, così come tantissimi sono gli aspetti sotto i quali si può esaminare il ruolo dell'astronomia nello sviluppo delle varie culture che sono fiorite nei vari continenti. Infatti, il cielo ha sempre affascinato l'uomo che, nelle varie mitologie, ne ha fatto sede dei suoi eroi, miti, dei, oltre a servire per esigenze pratiche quali il calendario e l'orientamento. Dopo Galileo, in epoche recenti, le scoperte astronomiche si sono susseguite velocemente tanto che la National Academy degli Stati Uniti ha affermato che negli ultimi decenni il loro ritmo è stato circa uguale a quello dell'epoca di Galileo. Solo per fare alcuni esempi, oggi gli astronomi hanno scoperto l'esistenza di sistemi planetari esterni a quello in cui viviamo. Sappiamo anche che le stelle vivono e muoiono, e che l'universo stesso è nato con una grande esplosione, il cosiddetto Big Bang. A Parigi si parlerà di tutto questo, ma è certo che nei prossimi mesi tanti altri eventi in quasi tutti i paesi metteranno in luce l'importanza e il fascino dell'astronomia. Forse uno degli aspetti più importanti è certamente l'interesse che l'astronomia suscita nei giovanissimi. È stato detto che la scienza del cielo può essere una sorta di cavallo di Troia per suscitare in essi l'interesse per la scienza in genere. Ognuno di noi astronomi può certamente testimoniare su questo. Basta vedere l'affollamento degli osservatori nelle occasioni in cui essi si aprono al pubblico. Numerosi programmi dell'anno dell'astronomia sono dedicati ai bambini e alle bambine e in vari paesi ci sarà una distribuzione nelle scuole elementari di piccoli telescopi in grado di mostrare le stesse cose che Galileo vide sulla Luna circa 400 anni fa. Ci si può augurare che siano tanti a partecipare alla meravigliosa avventura della scoperta del cielo, rivolta a meglio comprendere l'universo e le nostre remote origini. Avete ascoltato la lettura di un articolo di Franco Pacini dal settimanale Domenica allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi. Che cosa porta al collo un San Bernardo? I San Bernardi non hanno mai e poi mai portato al collo dei barilotti di brandy. La loro è una missione perfettamente astemia. A parte tutto, dare del brandy a una persona in ipotermia è un errore madornale. Ma i turisti hanno sempre amato quell'idea, e quindi i cani posano coi barilotti al collo. Prima di essere addestrati come cani da soccorso montano, i San Bernardi furono impiegati dai monaci dell'ospizio del passo del Gran San Bernardo per trasportare cibo. Le dimensioni e il temperamento mansueto ne facevano delle ottime bestie da soma. Il barilotto di brandy fu l'idea di un giovane artista inglese, Sir Edwin Landseer, particolarmente nelle grazie della regina Vittoria. Era un rinomato pittore di paesaggi e animali, noto soprattutto per il quadro The Monarch of the Glen e per aver scolpito i leoni che circondano la base della colonna di Nelson. Nel 1831 dipinse una scena intitolata Alpine Mastiffs Reanimating a Distressed Traveller, i mastini delle Alpi che rianimano un viaggiatore in difficoltà, in cui compaiono due San Bernardi, uno dei quali porta al collo un piccolissimo barilotto di brandy, aggiunto dal pittore per interesse. Da allora in poi l'associazione fu appioppata ai San Bernardi in generale. A Landseer si attribuisce anche la diffusione del nome popolare di San Bernardo e non mastino delle Alpi dato alla razza. In origine i San Bernardi erano conosciuti come cani di Barry, corruzione del tedesco Baren, Horsey. Uno dei primi salvatori di vite umane era noto come Barry il Grande. Salvò 40 persone tra il 1800 e il 1812, ma purtroppo venne gravemente ferito dalla 41esima, che lo aveva scambiato per un lupo e morì nel 1814. Barry fu imbalsamato e adesso occupa la posizione più importante al Museo di Storia Naturale di Berna. In suo onore, il maschio più bello di ogni cucciolata all'ospizio del San Bernardo prende il nome di Barry. A volte il dovere dell'ospizio di dare cibo e rifugio a chi lo chiede può rivelarsi complicato. Una notte nel 1708, al canonico Vincent Camus, toccò rifocillare oltre 400 viaggiatori. Per risparmiare manodopera, aveva un aggeggio simile a una grande ruota da criceto. Un San Bernardo ci trotterellava dentro, facendo così girare gli spiedi collegati alla ruota. Si calcola che questi cani abbiano operato oltre 2500 salvataggi dall'Ottocento in poi, sebbene nessuno negli ultimi 50 anni. Il risultato è che il monastero ha deciso di svenderli e di rimpiazzarli con degli elicotteri. Avete ascoltato la lettura di un estratto da Il libro dell'ignoranza di John Lloyd e John Mitchinson, Einaudi, 226 pagine, €12,80.